Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Piazza abbandona la cerimonia del San Giusto d'Oro in protesta con il premio alla Rete Solidale Trieste che aiuta i migranti. Chiedono il rito abbreviato. I tre imputati per la morte dell'imprenditore Tominaga, anche uno dei due ucraini picchiati, chiede i danni. Udine investe oltre 3 milioni di euro per interventi sociali innovativi di accoglienza ed educazione per persone a rischio di grave marginalità. Asugi inaugura il reparto cardiopneumodiabetologico a Monfalcone. Servizio multidisciplinare per pazienti prevalentemente cronici. Nella testa di un musicista con un caschetto neuronale, la performance Mezzo Cielo legge scientificamente le sue emozioni. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Una cerimonia movimentata, quella del San Giusto d'Oro di quest'anno, nell'aula del Consiglio Comunale dove è stato premiato l'imprenditore Enrico Samere. Una targa speciale è stata data anche alla Rete Solidale di Trieste, l'insieme di associazioni che si occupano di accoglienza. Proprio una delegata di questa rete nel suo discorso ha accusato le istituzioni di non far nulla per l'accoglienza dei rifugiati. Il sindaco per protesta è uscito dall'aula seguito anche da due assessori regionali. Un appello accorato alla stampa a raccontare davvero quello che succede in città alle migliaia di migranti che transitano per Piazza Libertà a Trieste senza trovare un riparo, una toilette, una vergogna, che se non fosse per noi volontari queste persone sarebbero totalmente abbandonate alle istituzioni. Alle parole della delegata che per conto della Rete Solidale Trieste ha ricevuto la targa speciale del premio San Giusto d'Oro, Marianna Buttignoni, per protesta al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza lascia l'aula del Consiglio Comunale. Si alzano anche gli assessori regionali per Paolo Roberti e Fabio Scoccimar. A rasserenare l'atmosfera in aula sarà poi il discorso di Enrico Sammer, l'imprenditore della logistica a cui la sostampa del Friuli Venezia Giulia ha assegnato la statua del San Giusto d'Oro 2024, per la prima volta data ad un imprenditore in 58 edizioni del premio. Sono onorato di condividere questa giornata con chi si occupa di volontariato, ha dichiarato Sammer, guardando appunto la delegata della rete che rappresenta le 7 associazioni del territorio che si occupano di migranti. Noi siamo ora con il presidente della sostampa, Carlo Muscatello, e le chiedo, le dispiace che ci sia stato questo battibecco in aula, però lei è convinto che i due premi dovessero essere assegnati proprio in questa giornata insieme? Perché insieme? Allora, non c'è stato nessun battibecco, il sindaco, e mi dispiace, è uscito insieme a due assessori regionali, poi uno è rientrato, l'altro è rimasto fuori col sindaco. Insieme perché la città è fatta a varie facce, c'è la Trieste che lavora, la Trieste del porto, del mare, del futuro e del progresso, e la Trieste degli ultimi, di chi passa magari da questa città tornando da una faticosissima rotta balcanica per andare a inseguire un domani, un futuro degno di questo nome, sfuggendo a guerre, miserie e povertà. Quindi Trieste è fatta di tante cose. Trieste, Nuovi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ora il Consiglio regionale, niente discussione questa mattina in aula sulla prossima finanziaria. I lavori sarebbero dovuti iniziare alle 10, invece la seduta, mai cominciata, è stata aggiornata alle 14:30, quando ci sarà l'ultimo intervento sulla discussione generale da parte del consigliere di Fratelli d'Italia, Markus Maurmeier, e quindi a seguire inizierà la discussione dei vari articolati, cominciando da quello che riguarda le attività produttive. In merito al caso della nave portacontainer Alfilc, battente bandiera della Tanzania e bloccata al porto di Monfalcone da febbraio scorso per diverse irregolarità, tra cui criticità di sicurezza e mancata manutenzione, Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l'autonomia civica FVG, ha dichiarato che si tratta di un caso di grave emergenza umanitaria, ambientale e di sicurezza portuale. La vicenda è dovuta a un sequestro giudiziario, forse legato alla non conformità della documentazione assicurativa. Ad oggi a bordo della nave restano 3 membri dell'equipaggio, cioè il comandante, uno stromo e un direttore di macchina, in condizioni precarie per l'inadeguatezza della fornitura elettrica e dei servizi igienici. Questi lavoratori stanno vivendo in una situazione al limite della dignità, ha sottolineato Bullian, che di recente ha depositato un'interrogazione in merito alla giunta regionale. Ora a Udine, con il processo Tominaga per la morte dell'imprenditore giapponese ucciso da un pugno quest'estate nel capoluogo friulano mentre cercava di placare un diverbio, i tre imputati hanno fatto richiesta di rito abbreviato nell'udienza preliminare di domani. La risposta del GUP. Chiederanno di essere giudicati con il rito abbreviato i tre indagati per la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga nel giugno scorso. Deceduto in ospedale alcuni giorni dopo aver ricevuto un pugno sferrato da Samuele Battistella e aver sbattuto violentemente il capo al pavimento. Con Battistella, che sta ancora attendendo la disponibilità del braccialetto elettronico per i domiciliari, c'erano anche Abdallah Juama e Daniele Wedam, tutti arrivati dal Trevigiano e di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Chiederanno la costituzione parte civile invece sia Alberto Tedeschi, avvocato della famiglia Tominaga e di un amico del giapponese che ha subito lesioni durante l'aggressione, sia Anna Caserta, legale di uno dei due ucraini picchiato nella rissa che ha preceduto l'omicidio di Tominaga. La rissa aveva coinvolto anche due muratori ucraini in trasferta da Pescara, poi la loro posizione è stata archiviata. Uno dei due domanderà i danni ai tre italiani per lesione aggravata e danneggiamento. I tre ventenni quindi dovranno rispondere anche delle lesioni all'ucraino, picchiato con una sedia per aver chiesto semplicemente dove si poteva prelevare denaro contante, sia all'amico di Tominaga, aggredito anche con uno sgabello. Per Ueda, ma anche l'accusa di minaccia con l'uso di un coltello, recuperato nel bed and breakfast in cui i tre alloggiavano. Per la morte di Tominaga, l'accusa della procura di Udine di omicidio preterintenzionale apre alla possibilità del rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. Il rito alternativo verrebbe concesso di diritto e prevede l'assenza di una fase dibattimentale con imputati giudicati sulla base delle indagini della PM, Laura Collini. Per la procura di Udine l'imputazione di omicidio preterintenzionale in concorso deve riguardare tutti e tre gli indagati, non solo Battistella. Di avviso contrario il Tribunale del Riesame di Trieste e la Cassazione, per i quali l'imputazione non andrebbe estesa a Wedam e Juama. Sarà la GUP Roberta Paviotti a valutare o meno la fondatezza della contestazione della procura. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Udine investe per il sociale e per il contrasto alla marginalità. In arrivo nuovi servizi dedicati alle fasce più deboli in città e Interland. Rafforzare il sistema di accoglienza e accompagnamento educativo rivolto a persone in condizione di grave marginalità, disagio abitativo o rischio di esclusione sociale. Un capitolo di emergenze cui il Comune di Udine, capofila del servizio sociale dell'ambito territoriale Friuli Centrale, intende rispondere con un corposo stanziamento di fondi, oltre 3 milioni di euro destinati alla coprogettazione e alla realizzazione di interventi sociali innovativi. Gli interventi programmati, presentati questa mattina a Palazzo d'Aronco dall'assessore all'equità sociale Stefano Gasparin, sono pensati per rispondere ad una gamma complessa di bisogni, dall'emergenza abitativa alla mancanza di servizi di prima necessità, fino all'esigenza di percorsi di accompagnamento per il reinserimento sociale e lavorativo. Tra le principali iniziative vi sono la creazione di dormitori e alloggi temporanei per chi si trova senza un tetto, e a questo proposito verrà inaugurato un nuovo dormitorio in città. Inoltre sono previsti lo sviluppo di soluzioni innovative come l'Housing First per garantire stabilità abitativa e il potenziamento di servizi di strada e centri di bassa soglia per intercettare e assistere chi vive in condizioni di forte disagio. Questi interventi mirano non solo a tamponare situazioni di crisi, ma anche a costruire percorsi personalizzati verso l'autonomia, favorendo l'integrazione sociale di persone spesso invisibili alla comunità. Il programma, finanziato anche grazie al PNRR, a fondi nazionali e regionali per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, prevede interventi strategici suddivisi in tavoli di coprogettazione con i principali attori del sociale, attivi fino al 31 marzo del 2026. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso parliamo di industria e del futuro della Flex di Trieste. Si riunisce questo pomeriggio in sede ministeriale il tavolo sull'azienda. A novembre c'era stato l'annuncio della cessione del sito produttivo al fondo tedesco Faircap. Un piano industriale, cosa verrà prodotto e quante persone verranno impiegate, è quello che i sindacati vorrebbero venisse presentato al tavolo ministeriale oggi pomeriggio a Roma da parte del fondo tedesco Firecap, società che ha firmato un accordo preliminare per l'acquisizione della Flex di Trieste. Lo stabilimento delle Noghere, che produce componentistica elettronica, è di proprietà della multinazionale americana Manufacturing. Il passaggio di proprietà dovrebbe avvenire nell'arco di 90 giorni, i tempi però non sono certi. Un cambio di proprietà quanto mai necessario dopo la comunicazione del mancato rinnovo del contratto di fornitura a fine anno da parte di Nokia, principale cliente della Flex. Lo stabilimento, dove oggi è in vigore il contratto di solidarietà, occupa 350 dipendenti, poiché dallo sviluppo degli attuali clienti e da eventuali nuove commesse la fabbrica triestina non sarebbe in grado di garantire più di 200 posti di lavoro. Serve dunque un piano industriale, sottolineano i sindacati, per proseguire nel cambio di proprietà. Organizzazioni dei lavoratori che hanno denunciato intanto anche la volontà da parte di Wärtsilä di esternalizzare alcuni servizi, mettendo a rischio circa 13 posti di lavoro a Trieste. Non verrebbe così rispettato l'accordo firmato qualche mese fa sul mantenimento dei posti occupati dopo l'annuncio dell'acquisizione di MSC dello stabilimento produttivo. Situazione al momento congelata in attesa delle decisioni della multinazionale finlandese. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone questa mattina si è tenuta l'inaugurazione del reparto cardiopneumodiabetologico dell'ospedale San Polo. L'articolazione demografica della popolazione sta cambiando e con essa inevitabilmente anche il quadro statistico delle patologie si evolve. Il nuovo reparto cardiopneumodiabetologico del San Polo di Monfalcone risponde a questo cambiamento con un'offerta specialistica integrata. Antonio Poggiana, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Più che un nuovo reparto, un nuovo servizio, perché quando si parla di reparto si associa il reparto all'ospedale. Pur essendo in ambiente ospedaliero, il servizio è del territorio, dove facciamo convivere più specialisti che si occupano delle malattie croniche maggiormente diffuse in una popolazione anziana. Gli anziani soffrono di problemi al cuore, cardiaci, molto spesso associati al diabete, molto spesso con problemi respiratori, e anche con problemi di necessità di dialisi e emodialisi. Ecco, mettere insieme, a lavorare insieme tutti questi professionisti consente all'utente, ad un paziente, di trovare la risposta nello stesso luogo a tutti i suoi problemi. L'assessore regionale alla salute e politiche sociali Riccardo Riccardi. Noi viviamo molto di più, nasciamo molto di meno, quindi abbiamo bisogno di meno posti, di meno punti nascita e di più risposte alle cronicità. Quindi mi pare un dato elementare per riuscire a rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle persone. Il reparto si avvale in questa fase d'avvio di personale sia dell'area isontina che di quella giuliana, in una sinergia dettata dalla persistente carenza di personale. Andrea Di Lenarda, direttore del Dipartimento Specialistico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Non è più sostenibile attivare percorsi paralleli per ogni singola malattia che viene curata da un singolo specialista, che richiede esami, che prescrive terapie. Il mondo è pieno di pazienti in perenne lista d'attesa per qualche esame o qualche prestazione. Le prestazioni singole, gli esami, le visite che possono essere prodotte, ma singolarmente non fanno salute. È la presa in carico del bisogno globale che produce salute. E questa è la nostra risposta. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna, le temperature registrate alle 11. A Trieste 10 gradi, a Udine 9 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 9 gradi, sul Piancavallo 4 gradi, a Forni di Sopra e Tolmezzo 3, a Tarvisio 0, a Sappada meno 2 gradi, sul Monte Zoncolan meno 1, sul Lussari meno 2, a Grado e Lignano 8 gradi e mezzo. Le previsioni a quella dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo poco nuvoloso con sempre minore nuvolosità verso sera. Nel Tarvisiano sarà probabile la presenza di nebbie o nubi basse, soffierà bora di debole intensità sulla costa occidentale, mentre sarà moderata su Carso e a Trieste. rivitalizzare i negozi di prossimità sempre più schiacciati dalla grande distribuzione organizzata, la campagna della locale Confcommercio a Pordenone invita a scegliere per gli acquisti di Natale i negozi sotto casa. Voi dove fate abitualmente gli acquisti? Che negozi prediligete? Noi li facciamo sempre vicino a casa, perché noi siamo più per la città, per migliorare anche il modo di vita della nostra città. Una campagna di sensibilizzazione per valorizzare e sostenere il commercio di vicinato, l'iniziativa promossa per le festività natalizie da Ascom Confcommercio Pordenone invita a scegliere i negozi di prossimità. Federico Ingargiolo è presidente mandamentale Ascom Pordenone. Il punto importante naturalmente è cercare di convogliare e favorire naturalmente gli acquisti sotto casa, quindi gli acquisti nei negozi di vicinato rispetto a tutte le attività che sono collocate all'interno dei nostri centri storici e nelle nostre città. Sì, l'attività commerciale è importante per il servizio che offre in termini di articolo, di prodotto, ma anche abbellisce i nostri centri urbani e fa naturalmente anche un'attività di carattere sociale da questo punto di vista, e quindi è anche corretto, insomma, che tutti noi, per quanto possiamo, riusciamo a favorire questo tipo di acquisti. Gli acquisti per il Natale rappresentano una boccata d'ossigeno per i commercianti. Stefano Erodi, vicepresidente Federmoda Ascom Pordenone. Siamo un po' all'inizio del periodo natalizio, abbiamo iniziato a aprire le domeniche, c'è interesse, nonostante la prima domenica fosse stata con la pioggia purtroppo, però insomma dai, c'è un buon interesse e speriamo che prosegua così, un po' in crescere. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà proiettato all'Università di Udine il docufilm Materia Viva, che affronta il rapporto tra uomo, tecnologia e ambiente e spiega l'importanza del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La proiezione si terrà alle 16.30 nell'aula C10 del Polo Scientifico, a seguire un dibattito con il regista Marco Falorni. Abbiamo intervistato Luca Cadez, ricercatore dell'Università di Udine e promotore del progetto Portale del Riuso, per chiedergli come mai è così difficile smaltire i rifiuti tecnologici. Oggi il problema in realtà è sostanzialmente duplice. Da un lato il problema intrinseco dei rifiuti elettrici ed elettronici, quello che sono composti da molti materiali uniti tra loro, all'interno dei quali troviamo plastica e vetro, ma anche e soprattutto metalli che tra l'altro hanno un loro valore economico e che potrebbero essere appunto recuperati riducendo la quota di ciò che invece andiamo a estrarre a livello di miniere, insomma a livello minerario. L'altro problema è che a questa complessità di composizione si associa l'enorme quantità di rifiuti che noi stiamo producendo. Si stima che a livello mondiale siano state prodotte nel 2022 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, che sostanzialmente riempirebbero oltre 1,5 milioni di camion da 40 tonnellate, sufficienti per formare una fila che circonda l'equatore. E questa quantità di rifiuti continua ad aumentare, e di queste si stima che soltanto il 22% venga raccolto e riciclato correttamente. Tutto il resto evidentemente sfugge a questo sistema di raccolta, e quindi è un problema anche dal punto di vista ambientale. Molti di questi rifiuti elettrici e elettronici, che sono anche un business economico importante, che sfuggono appunto ai controlli, finiscono spesso nei paesi in via di sviluppo, e quindi sono un oggettivo problema ovviamente dal punto di vista anche ambientale, oltre che sociale, perché poi senza un'adeguata gestione anche le sostanze inquinanti presenti possono disperdersi, e questo è un problema molto grave. Si dovrebbe riciclare di più o produrre di meno, magari facendo strumenti che durino più a lungo? Entrambe le strade vanno percorse. E sicuramente aumentare la vita degli oggetti è una cosa molto importante, tanto quanto riciclarli correttamente. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti a Trieste: alla sottostazione elettrica del Porto Vecchio Porto Vivo, inaugurazione dell'esposizione Le Tavole di Giovanni Cervesi alle 11.30, è già stata effettuata. La rassegna Viaggiare prosegue con Stefano Zuffi, Lo sguardo infinito, in viaggio con Caspar Friedrich a Pordenone all'Auditorium Vendramini alle 20.30. A Trieste, in collaborazione con il Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner, verrà presentato l'ultimo libro di Oliviero Stock, Meglio artificiale che niente, cronache dell'intelligenza sulla collina, che racconta di come a Trento, a metà anni Ottanta del secolo scorso, vide la luce uno dei maggiori istituti europei di ricerca in intelligenza artificiale. Alle 17.30, sede di Ade Uiso a Trieste, Piazza Benco 4. A Udine, alla Libreria Friuli, alle 18, Giuliano Pellizzari presenterà il suo nuovo libro La Terza Clessidra, un giallo ambientato tra gli scavi di Aquileia. Dialogherà con l'autore Elisa Michellut. Alla stessa ora, alla Libreria Minerva di Trieste, presentazione di Tre amici, tre bici a Zonzo in Gambia di Cecilia Gentile. E sempre alle 18 a Trieste, l'antico caffè San Marco, Giuliana Cadelli presenterà il suo libro Afrodite, l'arte dell'inganno. Per il programma del Natale Pozzolo, presentazione del libro Il mostro sotto il letto, dialogo con l'autore Salvatore Savasta. Cosa succede nella testa di un musicista quando si accosta al suo strumento per suonarlo? Lo scopriamo grazie a uno spettacolo scientifico che sta facendo il giro d'Italia, frutto della collaborazione tra un pianista friulano e uno scienziato triestino. Lo spettacolo sarà rappresentato domani sera al Teatro Comunale di Monfalcone. Che cosa prova un pianista quando suona? Cosa succede al cervello quando ascoltiamo un brano musicale? Uno spettacolo ideato dal pianista friulano Matteo Bevilacqua permette di scoprirlo. La performance Mezzo Cielo sta girando i teatri italiani. Bevilacqua indossa un caschetto neuronale collegato a uno schermo sul quale sono letteralmente proiettate le sue emozioni. La mente del pianista si mette a nudo. Ecco un esempio. Se il colore va verso il rosso, allora il workload è basso, vuol dire che il musicista sta facendo relativamente poca fatica in quel momento. E invece se i colori tendono verso magari il violaceo o il verde, il workload aumenta e quindi così aumenta lo stress mentale. Le emozioni del pianista vengono analizzate in tempo reale dal fisico Claudio Tuniz. Parleremo delle storie di note musicali, neuroni, emozioni, e andremo a cercare anche gli intrecci tra queste diverse entità nel passato profondo dell'umanità. Grazie agli avanzamenti della scienza, infatti, possiamo ora capire come funzionava il cervello dei nostri antenati più lontani. Facciamo le tac a degli antichi Neanderthal o degli antichi umani che hanno preceduto la nostra specie e riusciamo ad estrarre il cervello virtuale di questi umani del passato che rimane impresso sulla volta cranica. Mezzo Cielo è il frutto di una collaborazione tra arte e scienza importante per lo studio delle emozioni umane. Capire le emozioni umane, secondo me, sarà una delle più grandi sfide del nostro millennio. E anche con l'avvento dei social e con l'avvento delle nuove tecnologie, diciamo che questa componente emozionale si sta sempre di più rarefacendo. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Monfalcone sul palco porta inscenatori con disabilità per dare vita alla rappresentazione La vita è sul palco, curata dal Piccolo Teatro di Monfalcone con l'associazione Oltre quella sedia. Al termine premio alla cultura Monfalcone sul palco a tre monfalconesi che si sono distinti nel campo artistico e culturale, superando i confini locali e valorizzando la città in contesti più ampi. Parteciperà all'evento il vicepresidente nazionale del Libero Teatro Ermanno Germano, psichiatra e coordinatore del teatro sperimentale terapeutico, alle 18. Ci sarà anche il triestino Etra al prossimo Festival di Sanremo, proveniente da Area Sanremo. Il cantante si è aggiunto ai finalisti di Sanremo Giovani 2024 con altri 7 nomi concorrenti. Etra si esibirà mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione di Carlo Conti, per aggiudicarsi uno dei 4 posti a disposizione nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, alla parte tecnica Roberto Cavallari e Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Samantha Gonda, Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona continuazione di giornata.